Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Quando pensate alla delinquenza, disse il sovrintendente distrettuale di polizia McBride, voi pensate alla delinquenza inglese? Qui la psicologia è diversa, Mr. Fielding. Scommetto che adesso mi direte che quando Aziz è sceso dalla montagna per salutarvi era assolutamente normale. Non c'era motivo che non lo fosse. Leggetevi un qualunque resoconto dell'ammutinamento. Quello dovrebbe essere la vostra Bibbia in questo paese, altro che il Bhagavad Gita. Per quanto non sia pronto a giurare che le due cose non siano strettamente connesse. Sono una carogna, vero? Ma vedete, Fielding, come già vi ho detto un'altra volta, voi siete un insegnante. E questa gente, voi, la vedete nel suo aspetto migliore. È questo a portarvi fuori strada. Da ragazzi possono essere incantevoli, ma io li conosco come sono realmente, quando diventano uomini. Guardate qua, per esempio. Egli mostrò il portafoglio di Aziz. Ne sto esaminando il contenuto, non è edificante. Ecco la lettera di un suo amico che a quanto pare è padrone di un bordello. Ah, non voglio vedere le sue lettere personali. Bisognerà citarla in tribunale come un indizio della sua moralità. Stava combinando di andare a donne a Calcutta. Oh, basta, basta. McBride si interruppe, sinceramente sconcertato. Gli sembrava indiscutibile che due signori dovessero mettere in comune tutto quello che sapevano sul conto di un indiano e non riusciva a capire cosa ci fosse da obiettare. Voi avete il diritto di lapidare un giovanotto per questo, immagino. Ma io no. Alla sua età facevo altrettanto. E il sovrente di polizia anche. Ma gli parve che la conversazione avesse preso una piega sgradevole e non gli piacque nemmeno ciò che Fielding disse subito dopo. Non è proprio possibile vedere Miss Quested? Ne siete sicuro? Non mi avete nemmeno spiegato che cosa vi giri per la testa. Perché diavolo volete vederla? Nella vaga speranza di una ritrattazione prima che voi inoltriate quel verbale e lui sia rinviato a giudizio e tutta la faccenda esploda. Amico mio, invece di discutere, abbiate la gentilezza di telefonare a vostra moglie o a Miss Derek e di domandarlo a loro. Non vi costa niente. Domandarlo a loro non serve, rispose McBride allungando la mano verso il telefono. Una cosa del genere la regola Callender, naturalmente. Forse non avete capito che sta molto male. Ah, lui rifiuta, di certo. È nato per questo, disse Fielding, disperato. La risposta era scontata. Il maggiore vietava in modo assoluto di disturbare la paziente. Volevo soltanto domandarle se è certa, assolutamente certa, che è stato Aziz a seguirla nella grotta. Forse questo potrebbe domandarglielo anche mia moglie. Ma volevo domandarglielo io. Voglio che glielo domandi qualcuno che crede in Aziz. Che differenza c'è? Lei è tra gente che non crede negli indiani. Beh, racconta quello che le è successo, no? Lo so, ma lo racconta a voi. McBride alzò le sopracciglia mormorando. Un po' troppo rigirato. A ogni modo, Callender non vorrà saperne di questo colloquio. Poco fa, purtroppo, era molto pessimista sul suo stato. Dice che non è affatto fuori pericolo. Rimasero zitti. Fu portato nell'ufficio un altro biglietto da visita, di Hamidullah. Il nemico radunava le sue forze. Adesso devo finire questo verbale, Fielding. Vorrei che non lo faceste. Impossibile, ribadì McBride. Sento che la situazione non è soltanto poco convincente, riprese Fielding, ma anche molto disastrosa. Stiamo andando verso una terribile catastrofe. Posso vedere l'imputato, immagino. L'altro esitò. Pare che la sua gente si sia già messa in contatto. Beh, quando avrà finito con loro? Non vi farei davvero aspettare, santo cielo, avete la precedenza su qualunque visitatore indiano, questo è chiaro, ma mi domando, a che scopo? Perché andate a ficcarvi in quella pece? Vi dico che è innocente! Innocente o colpevole, perché vi ci ficcate in mezzo? A che scopo? Oh, a che scopo? A che scopo? Gridò Fielding, sentendo che si bloccavano tutte le strade. Uno ogni tanto deve pure prender fiato. Per me è così, almeno. Lei non posso vederla, e ora non posso vedere nemmeno lui. Gli avevo promesso di accompagnarlo qui, da voi, ma avevo fatto appena due passi quando Mr. Tarton mi ha chiamato. «Ah, proprio le cose da bianco che fa il Gran Sahib», disse McBride, patetico. E cercando di non prendere un tono protettivo, tese la mano sopra il tavolo e disse: «Ho paura che dovremo schierarci tutti su un fronte, amico mio. Lo so che ho meno anni di voi, ma ho una maggiore anzianità di servizio. Voi non conoscete questo velenoso paese come lo conosco io». E dovete credermi se vi dico che nelle prossime settimane la situazione a Chandrapur sarà brutta, molto brutta. Ma ve l'ho detto un minuto fa. Ma in un momento simile non c'è posto per... Beh, per le opinioni personali. L'uomo che non resta nei ranghi è perduto. Sì, sì, capisco quello che volete dire. No, no, non del tutto. Non solo è perduto lui, ma indebolisce i suoi amici. Se uscite dai ranghi, lasciate una breccia e questi sciacalli, indicò i biglietti dei legali, stanno lì coi fucili puntati proprio in cerca di una breccia. Posso vedere Aziz? Fu la risposta. No. Ora che conosceva l'atteggiamento di Tarton, il poliziotto non aveva più dubbi. «Potete vederlo con un permesso del magistrato, ma io non mi sento di assumermi questa responsabilità. Potrebbero nascerne nuove complicazioni». Fielding tacque, riflettendo che se avesse avuto 10 anni di meno o passato 10 anni di più in India, avrebbe risposto all'appello di McBride. Mordendo il freno disse: «A chi devo rivolgermi per questo permesso?» «Al magistrato di città». «Ah, Islop! Questa è bella!» «Sì, non è certo il caso di tormentare il povero Hislop». In quel momento comparvero altre prove. Il cassetto del tavolo preso dal bungalow di Aziz, che un caporale portava in trionfo sulle braccia. «Ah! Fotografie di donne!» «Questa è sua moglie», disse Fielding con un sussulto. «Come lo sapete? Me l'ha detto lui?» McBride fece un sorrisino incredulo e cominciò a frugare nel cassetto. La sua faccia divenne curiosa e un po' abietta. «Altro che moglie, le conosco, queste mogli», stava pensando. Poi disse ad alta voce: «Bene, Ora dovete filarvela, amico mio. E che Dio ci aiuti, che Dio ci aiuti tutti. Come se la sua preghiera fosse stata ascoltata, si udì l'improvviso fragore della campana di un tempio. Hamidullah fu la seconda tappa. Aspettava fuori dell'ufficio e nel vedere Fielding scattò rispettosamente in piedi. All'appassionato, è tutto un errore dell'inglese, ribatté: «Ah, dunque, ci sono altre prove?» «Ci saranno», disse Fielding tenendogli la mano. «Ah, sì, sì, Mr. Fielding, ma quando un indiano è arrestato, non sappiamo dove si va a finire». I suoi modi erano deferenti. «Siete molto buono a salutarmi così davanti a tutti e ve ne ringrazio, ma, Mr. Fielding, soltanto le prove convincono un magistrato. Mr. McBride ha detto qualcosa quando gli hanno portato il mio biglietto? Vi pare che la mia richiesta l'abbia seccato? O che possa predisporlo contro il mio amico? In questo caso sono pronto a ritirarla». «No, non è seccato. Ma se anche lo fosse, che importa?» «Ah, voi potete parlare così, ma noi indiani dobbiamo vivere in questo paese». Il primo penalista di Chandrapur, con i suoi modi solenni e la sua laurea di Cambridge, era rimasto scosso. Anche lui amava Aziz e sapeva che lo calunniavano, ma non era la fede a governare il suo cuore. E perciò andava parlando di tattica e di prove in un modo che rattristava l'inglese. Anche Fielding aveva le proprie ansie. Non gli piaceva quel binocolo né la contraddizione a proposito della guida, ma le teneva alla periferia della sua mente per impedire che ne contagiassero il fondo. Aziz era innocente. Su ciò doveva essere fondata tutta l'azione. E coloro che sostenevano la sua colpevolezza erano forti, e cercare di ingraziarseli era un'impresa disperata. Nel momento in cui si stava schierando con gli indiani, Fielding capì quanto fosse profondo l'abisso che lo divideva da loro. Fanno sempre qualcosa che delude. Aziz aveva tentato di sfuggire alla polizia. Mohammed Latif non aveva impedito il saccheggio. E adesso Hamidullah, invece di infierire e di minacciare, prendeva tempo. «Sono vili? Gli indiani? No, no, ma partono male e ogni tanto si impuntano. La paura è dovunque. Su questa è fondato l'impero britannico. Anche il rispetto e la cortesia dimostrati a Fielding erano atti inconsci di propiziazione. Disse ad Hamidullah di rincuorarsi, che tutto sarebbe finito bene, e Hamidullah si rincuorò e divenne combattivo e ragionevole. L'osservazione di McBride, se uscite dai ranghi, lasciate una breccia, stava trovando conferma. Luogo e soprattutto la questione della libertà provvisoria. Bisognava fare l'istanza quel pomeriggio. Fielding voleva rendersi garante. Hamidullah pensava che si dovesse prendere contatto col Nawab Bahadur. Ma perché? Coinvolgere anche lui? Coinvolgere tutti quanti era proprio la mira del penalista. E gli suggerì poi che si doveva affidare la causa a un avvocato indù. Con quell'espediente la difesa avrebbe avuto un'eco più vasta. Fece uno o due nomi, uomini di altre città che non si sarebbero lasciati intimidire dalla situazione locale, e disse che lui era Peram Ritrao, un avvocato di Calcutta, che aveva un'ottima reputazione professionale e personale, ma era notoriamente antibritannico. Fielding fece qualche obiezione, gli pareva che si andasse all'altro estremo. Aziz doveva essere scagionato, ma con un minimo di odio razziale. Al circolo Amri Trau era detestato. Designare lui sarebbe stato considerato una sfida politica. Oh no, dobbiamo colpire, colpire con tutte le nostre forze. Quando poco fa ho visto entrare un sudicio poliziotto con le braccia cariche delle carte personali del mio amico, mi sono detto: Amri Trau è l'uomo che ci vuole per chiarire questa faccenda. Seguì una lugubre pausa. La campana del tempio continuava il suo strepito assordante. L'interminabile e disastrosa giornata era appena arrivata al pomeriggio. Proseguendo il loro lavoro, adesso gli ingranaggi dell'impero misero in moto un messaggero a cavallo dal sovrintendente al magistrato con un mandato ufficiale d'arresto. «Non complicate le cose. Lasciate che vadano da sole», scongiurò Fielding, mentre osservava l'uomo svanire nel polverone. «Noi dobbiamo vincere. Non ci rimane altro da fare. Quella non sarà mai in grado di provare l'accusa». Questo confortò Hamidullah, che con assoluta sincerità disse: «Nei momenti critici gli inglesi sono veramente insuperabili». «Arrivederci allora, mio caro Hamidullah. Adesso dobbiamo eliminare il mister. Quando vedete Aziz, assicuratelo della mia amicizia e ditegli che stia calmo, calmo, calmo. Io torno all'istituto. Telefonatemi solo se avete bisogno di me, altrimenti no, perché avrò molto da fare. Arrivederci, mio caro Fielding. Siete proprio con noi, contro il vostro stesso popolo?» «Sì, assolutamente». Gli rincresceva di prendere posizione. Si era sempre sforzato di scivolare attraverso l'India senza nessuna etichetta. D'ora in avanti l'avrebbero chiamato antibritannico, sedizioso. Termini che lo infastidivano e menomavano la sua utilità. Come se la tragedia non bastasse, prevedeva che ci sarebbe stato del torbido. Già scorgeva tanti piccoli nodi seccanti e sempre più grossi ogni volta che tornava a considerarli. Nato libero, non aveva paura dei torbidi, ma ne ammetteva l'esistenza. Questa parte della giornata si concluse con uno strano, vago discorso col professor Godbole. E così, mentre Fielding aveva ben altri guai per la testa e si domandava se dovesse scrivere una lettera di supplica a Miss Quested, gli toccò di ascoltare un discorso che non aveva né capo né coda e rimaneva sospeso in aria. «Devo dirvi con quanta gioia ho saputo che, dopo tutto, siete riuscito ad arrivare a Marabar», diceva Godbole. «Temevo che il mio ritardo ve l'avesse impedito, ma ci siete andato, modo di gran lunga più piacevole, nell'automobile di Miss Derek. Spero che sia stata una bella gita». «La notizia non vi è ancora arrivata, a quanto vedo». «Oh sì». «No, è successa una catastrofe terribile ad Aziz». «Oh sì, nell'istituto non si parla d'altro». «Beh, non so come si possa definire bella una gita in cui succede una cosa simile», disse Fielding, guardandolo stupefatto. «Io non posso dirlo, non ero presente». L'altro tornò a fissarlo, che era la cosa più inutile del mondo, perché nessun occhio poteva vedere quello che c'era nel fondo della mente del bramino, e tuttavia aveva una mente e un cuore anche lui, e tutti i suoi amici se ne fidavano senza saperne il motivo. «Sono terribilmente sconvolto», disse Fielding. «Sì, me ne sono accorto appena entrato nel vostro ufficio. Non devo trattenervi. Come sapete, tra breve lascio il mio posto alle vostre dipendenze. Eh sì, purtroppo. E tornerò nel mio paese di origine, nell'India centrale, per occuparmi dell'istruzione. Voglio istituirvi una scuola superiore secondo i sani principi inglesi, quanto più possibile simile all'istituto governativo. Ebbene? Sospirò Fielding, cercando di interessarsi alla cosa. Attualmente a Mau non si insegna che in dialetto. Io riterrò mio dovere di cambiare tutto questo. Consiglierò a Sua Altezza di autorizzare almeno una scuola superiore nella capitale e, se possibile, un'altra in ogni provincia. Fielding affondò la testa tra le braccia. Certe volte gli indiani erano proprio insopportabili. Il punto sul quale desidero il vostro aiuto è questo. Che nome si può mettere alla scuola? Nome? Un nome per una scuola? Disse lui, colto da un improvviso malessere, come già gli era capitato nella sala d'aspetto. Sì, un nome, un'intitolazione adeguata con cui si possa chiamarla, con cui sia nota a tutti. Oddio, non ho proprio testa per i nomi delle scuole, non riesco a pensare che al nostro povero Aziz. Ma vi rendete conto che in questo momento è in prigione? Oh, sì. E non mi aspetto che rispondiate subito alla mia domanda. Volevo soltanto dire che, forse, con vostro comodo, potreste pensare alla cosa e suggerirmi due o tre nomi tra cui scegliere. Io avevo pensato a Scuola Superiore Mr. Fielding, ma se questo non si può, re e imperatore Giorgio V. Godbole! Giunse le mani e prese un'aria scaltra e simpatica. Oh, ek ladki ko dekha to aisa laga. Ek ladki ko dekha to aisa laga. Godbole, Aziz, è innocente o colpevole? Tocca al tribunale di deciderlo. Non ho alcun dubbio che il verdetto dipenderà strettamente dalle prove. Sì, sì, certo, ma la vostra opinione personale. C'è un uomo a cui vogliamo bene, che tutti stimano, vive tranquillo facendo il suo lavoro. Ebbene, a quale conclusione si deve arrivare? È capace o no di fare una cosa simile? Ah, ma questa è una domanda piuttosto diversa dalla precedente e anche più difficile. Difficile, dico, per la nostra filosofia. Il dottor Aziz è un giovanotto di grande valore e io lo tengo nella massima considerazione, ma voi mi state domandando, credo, se l'individuo può commettere buone azioni o cattive azioni. Questo per noi è piuttosto difficile. Parlava senza uno speciale sentimento, scandendo rapidamente le sillabe. Vi domando, l'ha fatto o no? È chiaro? Io so di no, e comincio da questo. Mi propongo di scoprire la verità in un paio di giorni. La mia ultima supposizione è che sia stata la guida che li aveva accompagnati. Malvagità da parte di Miss Quested? Non è possibile, anche se Hamidullah lo crede. Certamente le è successo qualche cosa di terribile, ma voi dite, oh no, ma perché male e bene devono essere la stessa cosa? No, non esattamente, prego, secondo la nostra filosofia, perché non si può compiere nulla isolatamente, disse Godbole, e analogamente, quando arriva il dolore e via dicendo, e via enumerando, e tutto è nulla, e niente è qualche cosa... mormorò Fielding nella sua irritazione, perché aveva bisogno di un terreno solido. Scusatemi, state cambiando di nuovo la base della nostra discussione. Stavamo discutendo del bene e del male. Il dolore non è che un fatto isolato. Se una giovane signora prende un colpo di sole, questo per l'universo non ha la minima importanza. Oh no, affatto. proprio nessuna. È una cosa isolata, non riguarda che lei. Se lei pensasse che la testa non le duole, non sarebbe malata e tutto finirebbe. Ma quando si tratta del bene e del male, è tutt'altra cosa. Essi non sono quello che noi li riteniamo, sono quello che sono, e ognuno di noi vi ha contribuito. Insomma, voi state predicando che il male ed il bene sono la stessa cosa. Oh no, vogliate ancora scusarmi. Il bene e il male sono due cose diverse, come appare dal loro nome. Ma nella mia umile opinione sono entrambi aspetti del mio Dio. Egli è presente nell'uno e assente nell'altro, e la diversità tra la presenza e l'assenza è grande, grande quanto la mia debole mente può arrivare a concepire. Tuttavia, l'assenza implica la presenza. L'assenza non è non esistenza, e noi siamo quindi autorizzati a ripetere al Dio: vieni, vieni, vieni, vieni, e senza riprendere fiato, quasi volesse cancellare quella qualsiasi bellezza che le sue parole avevano potuto contenere, soggiunse: ma avete avuto il tempo di visitare qualcuna delle interessanti antichità dei Marabar? Fillin rimase zitto, sforzandosi di meditare e di far riposare il proprio cervello. Nel pomeriggio Fielding ottenne un permesso e poté vedere Aziz, ma lo trovò intrattabile per la disperazione. «Mi avete abbandonato?» fu l'unica sua frase coerente. Fielding se ne andò a scrivere la sua lettera a Miss Quested. Non sarebbe servita a niente nemmeno se lei l'avesse ricevuta, e probabilmente i McBride l'avrebbero intercettata. Miss Quested lo metteva sotto sopra. Era una ragazza così arida, così razionale, del tutto priva di malizia, l'ultima persona a Chandrapur capace di accusare ingiustamente un indiano. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.